Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Per 3 mesi hanno cercato Yara viva. Ma Yara, la 13enne di Brembate, sparita in un livido pomeriggio di novembre, già 3 mesi fa forse, era stata uccisa. Mentre i volantini, col suo sorriso di bimba con l'apparecchio, tappezzavano i muri del Bergamasco e i volontari setacciavano boschi e valli, la piccola ginnasta, forse, era già lì, in quel campo di Chignolo d'Isola a soli 10 chilometri da casa, dove poi il modellino di un aereo telecomandato l'ha fatto ritrovare, esattamente una settimana fa. Di colpo, dal buio angosciante dell'assenza, il suo nome, che in arabo pare significhi piccola farfalla, è passato sotto la luce alogena dei riflettori delle telecamere, puntati su quei rovi che l'hanno nascosta o sulle strade della comunità che l'ha cercata. Fuori i marocchini da Brembate, scrissero mani di residenti pochi giorni dopo la scomparsa della ragazzina da questa comunità tanto riservata quanto chiusa. Una comunità che ora, 3 mesi dopo, mentre le indagini proseguono, si riscopre lacerata dal dolore, dalla paura e soprattutto dal sospetto. Tutti sospettano di tutti ora, confida con la voce affaticata dalla tristezza e quasi dall'incredulità Giovanni Valsecchi, capo della protezione civile di Brembate. Per 3 mesi anche i suoi uomini hanno cercato Yara, ovunque. E ora che il corpo della ragazzina è stato ritrovato proprio nelle vicinanze del quartier generale dei volontari, ombre e veleni avvolgono pure loro. Se fossimo indagati mi ritirerei, ma sui miei uomini metto la mano sul fuoco, assicura Valsecchi, che dopo aver sperato di riconsegnare Yara ai suoi genitori, ora fa la guardia davanti a casa Gambirasio per proteggere il loro dolore. La comunità sono al massimo della guardia, ai minimi livelli di compattezza, perché non si pensava di arrivare a una soluzione del genere, capito? Cioè, in questo momento ciascuno sospetta di chiunque? Brava, sì, sospetta di chiunque. Fino adesso non si sa niente, non si sa se era uno, non si sa quel cantiere là, come ha fatto a passare di là. Riesco a venirne a capo un po' più veloce, diciamo, perché qui siamo tirati al massimo. Il paese si sta lacerando insieme alla famiglia di Yara. Bravo, quelli che hanno in casa dei figli non riescono a darsi pace, capito? Com'è cambiata anche la vostra vita quotidiana? È diventato un inferno. Io ho 7 nipoti, io. L'ottavo viene il mese prossimo, la prima ha 15 anni, ho dentro 4 femmine, più o meno quella tra lì. Io continuo a dire a mia figlia di stare attenti, mi raccomando, portala a scuola, accompagnala, non abbiamo più libertà, capito? Pensate che ci possa essere un serial killer? Brava, io ci penso così fino a che non sia qualcosa in mano, capito? È il timore che abbiamo, perlomeno io non sono in testa quella cosa lì, no? Cioè lei cosa c'ha in testa? Beh sì, uno della zona, non andiamo a cercare quel marocchino, non marocchino, quei cartelli fuori marocchino. Io ho detto già allora al sindaco, stiamo calmi, che i marocchini, ci dico, fuori bergamaschi lo Brembate, capito? Quindi lei dice potrebbe essere uno della zona, chi ci esclude che possa tornare a fare del male? Le mie paure sono quelle, poi mi sbaglierò, no? Signor Valsecchi, che cosa è stato per voi il fatto che il corpo di Yara sia stato ritrovato a poche decine di metri dal vostro, chiamiamolo, quartier generale, in una zona che era stata pattugliata anche molto da dai volontari? Io, guarda signor, ho preso un colpo quando ho saputo dalla notizia, sono andato subito sul posto. A me se mi davano una pugnalata quel momento non mi usciva una goccia di sangue. Sono rimasto talmente male, avendo lì vicino una discoteca che è andato quel famoso extracomunitario un mese fa, sembra, non so, più o meno morto, accoltellato, mi hanno detto lì fuori. Pensavo fosse setacciata centimetro per centimetro, purtroppo ho sentito che l'hanno passata 2 volte, ma è fuggita. Cioè quante volte era stata controllata? 2 volte, mi hanno detto di sicuro. Personalmente non sono mai andato su quella zona, non siamo mai andati noi qui di Brembate su quella zona lì. E quindi in quella zona lì chi è che è andato a controllare? Il gruppo lì è il gruppo di Filaro, Barone, frate, c'è il centro lì a Madone, era lì a 500 metri da dove partivano le ricerche qui ultimamente. Questi giri erano stati fatti anche con i cani? Una volta l'hanno fatti anche con i cani. Ecco, ma secondo lei, signor Valsecchi, c'è qualcuno che sa qualcosa e che non ha parlato? Ma io penso di no. Non penso che ci siano delle persone che ha visto portare via la ragazzina e che non vuol parlare. Non penso quello lì. Io penso che quella persona lì che l'ha portata via la conosceva. La ragazzina si è fidata del mostro. Questo è quello che sembra emergere anche dai primi dati del lavoro degli inquirenti, quello che immaginano. Ma io dal primo giorno ho pensato subito, sapendo dalla sua maestra di danza, così mi sono informato subito, come carattere non era una sbarazzina, non era una, diciamo, che si fida di tanti. Ma secondo lei una persona o più di una? Io penso che sia più di una. È difficile che una persona sola riesca a fare una cosa del genere. Dove l'hanno trovata, sì, si può arrivare in macchina, poi ci sarà un 50 metri di erbacce e roba del genere. Però con la macchina ci si arriva, Sono andato io personalmente, ho visto che ci sarà 70-80 metri. Subito dopo la scomparsa di Yara si è parlato molto di tutta la mobilitazione che c'è stata nella vostra comunità per cercarla, appunto i tanti volontari. Quanti eravate in totale? 300 più le forze d'ordine. Quindi tanta mobilitazione, appunto, anche delle comunità. Ora il fatto che questo corpo sia stato trovato in una zona controllata in qualche modo fa ricadere i veleni e i sospetti anche sulla stessa gruppo di volontari e infatti siamo tartassati. Tante persone qua dal posto ci ringraziano del lavoro che abbiamo fatto. Una piccola percentuale hanno detto che siamo incompetenti. In che modo ve l'hanno detto? In faccia. Stavo andando a pranzo, mi fermo uno, ma voi col sistema che fate ricerche così sparsi sembravate più che cercatori di passatempo. Mi dicono quelle frasi lì, non è che rimani bene. Alcuni anche dei volontari sono stati anche chiamati in questura. Sì, io so che anche il mio responsabile la zona lì di filava così, ma è stato su più di una volta in questura. Hanno voluto sapere chi erano, chi ha fatto il giro lì, quante volte l'ha fatto, se c'erano i cani. La questura sta facendo tutte le indagini per verificare chi c'era e chi non c'era. Ma lei ci metterebbe la mano sul fuoco? Su tutti i volontari? Sì. Io personalmente sì, perché era 10 anni che lavoro insieme. Quest'anno è l'11° anno. Siamo addestrati, siamo brava gente. L'anno scorso ne ho buttati fuori 2 perché quando c'era da uscire non uscivo. Mi stanno entrando 4 nuovi. Ho fiducia al 100% delle persone. Teme che voi possiate essere indagati? Se saremo indagati, che vale lunghe con le indagini, io quasi mi ritirerei da volontariato. Cioè, se lei fosse iscritto nel registro degli indagati insieme agli altri volontari, le dice farei un passo indietro? Passo indietro perché con tutte le giornate che ho buttato via, tutti i sacrifici con la mia moglie che ha dei problemi a casa da sola, arrivando alla conclusione del genere, signora, me lo dica lei. Invece con i genitori di Yara lei ha avuto la possibilità di sì, sentirli? Sì, sono andato là l'altro giorno con il padre, mi ha abbracciato, quasi mi consolava a me, anziché io consolare lui. Ha visto che ho preso una botta. Mi è venuto incontro, mi dice dai su Pino, cosa stai facendo, dai. Quindi da parte della famiglia di Yara nessun sospetto o nessun rammarico nei confronti dei volontari? No, non anche a parlarne. Né lei ha notato in questi giorni che c'è stato un qualche cambiamento all'interno delle vostre squadre, qualcuno che ha avuto qualche atteggiamento diverso? No. L'ho letto i miei colleghi sabato erano le 1:30, ho detto prima andare a Fatima il 28 di marzo, portiamo a casa Yara, viva. 2 ore dopo ho avuto la notizia. Ecco, in questi 3 mesi più volte sono arrivate delle indicazioni sul fatto che della possibilità e dei segnali di trovare Yara viva. Secondo lei perché? Da che cosa nascevano questi segnali? Pensavo che qualcuno l'avesse sequestrata per problemi familiari. Io avevo sempre in testa che la ragazzina dovevamo trovarla viva e avevamo tutti in testa quel discorso lì. No, viva. Cioè, me lo sentivo anch'io dentro di me che era viva, no? Però voglio dire, indicazioni di questo tipo... Ma su qualche indicazione no, non abbiamo mai avuto indicazioni di dire... Beh, sì. Però anche dalla questura, dal capo dello SCO, erano state indicazioni di questo tipo, della possibilità, almeno della non esclusione del fatto che Yara fosse ancora viva, ma erano soltanto sul fatto che mancavano dei segnali di altro tipo. Sì, brava, sì. Supponeva, li avevamo in testa noi, anche tutti i volontari. Ci facevamo coraggio anche se era la neve. avevamo sempre in testa, perlomeno nei miei gruppi, di trovare un indizio di salire alla ragazzina in qualche posta segregata. E voi in quei mesi di verifiche, di controlli, di giri, non avevate mai trovato un qualche elemento che potesse essere un elemento da segnalare, che vi potesse sembrare mai, neanche un indizio, niente. Abbiamo trovato diversi luoghi dove abbiamo trovato degli extracomunitari sbandati. Abbiamo cominciato a dire, vedrai che l'avranno in mano quella lì. Dai, i primi giorni ci pensavo che l'avessi in casa qualcuno segregata. E invece purtroppo non era così. Invece purtroppo ho visto mandata. Ritrovate questa intervista, come tutte le altre, sulla pagina di Storiacce di Radio 24 e da lì è possibile accedere anche all'audioblog di Storiacce. La mia mail raffaella.calandra@radio24.it, ma mi ritrovate anche su Facebook, dove ora debutta anche la pagina di Storiacce. Ciao a tutti, a sabato!